racconta in tante storie vissute poi finite. Qualcosa nel tempo ci sarà, il sorriso oppure il pianto resta e non si perderà mai. Ricordo di una sera, un faro e sulla spiaggia ci baciavamo e noi, lo sguardo di chi spera, fermavamo il tempo, restando insieme poi noi, non finiremo mai. Vola poi nel tempo la storia questa volta, il vento l'ha portata qui da me, nella mente un'altra volta, ed io non scorderò mai più. Vede l'alba per morire, qualche cosa poi ti resterà. Se ricordi o fantasie, solo il tempo poi ce lo dirà. Ancora, mistero di una notte, in cielo tante stelle e c'eravamo noi. Saranno altre volte che restando insieme amando ancora poi noi, non ci lasceremo mai. Viene adesso il tempo per capire com'è stato e cosa ci ha portato ancora qui. Quante volte l'ho cercata, non lo ricordo più. Il tempo, un momento per capire, della vita poi qualcosa ci sarà, sia la gioia che il dolore rimane e non si perderà mai. Ricordi di un amore, lacrime o sorrisi, siamo stati sempre noi. Sospiri di una volta, ricordi di momenti, come eravamo e poi noi, non ce ne andremo mai. Vola poi nel tempo la storia un'altra volta, il vento l'ha portata via da me, tante volte nei pensieri, ma io non l'ho rivista più.